24 mattino. L'Italia si desta. Così, buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia. Non vi preoccupate, Alessandro Milan ve lo restituisco il prima possibile, però questi due giorni li beccate me. Gli altri due terzi di 24 mattino, Miriam Lucchetti e Peter Bescapè, sono qua, insomma, quindi ci siamo. Titolo di Libero: I Balilla di Renzi, nuove vette del culto della personalità. Per accogliere il premier, gli insegnanti di una scuola siciliana costringono gli alunni a cantare un'incredibile canzoncina agiografica. Un lavaggio del cervello, scrivono, degno della Corea del Nord. E va bene, la giornata di ieri di Matteo Renzi, questo mercoledì che ha deciso di dedicare alle scuole, prima Treviso, poi ieri Siracusa con questa canzoncina, appunto Clap and Jump per Renzi il titolo, una sorta di blues, diciamo così. E c'è Beppe Grillo ieri che in un suo post sul blog, poi c'è stato un botta e risposta tra i due, ha detto sembrava una cosa, sembrava Mussolini con i figli della lupa. Ce l'abbiamo? Via. Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Andrea Sarubbi, giornalista, cronista parlamentare, lavora per La Stampa, ex deputato del Partito Democratico, eccoci. Buongiorno a voi. È un po' forte, figli della lupa, dai. Però fa ridere, dai. Dai, però ci sta, tutto sommato. Tortorella, è la Corea del Nord? No, allora non esageriamo. Possiamo dire che esteticamente non è bello, ma mi pare un po' esagerato il paragone, anche perché il dubito che Renzi abbia imposto ai professori, maestri, quello che erano della scuola di Siracusa, di farle cantare. C'è qualcuno che mi scrive: è roba da telefono azzurro. Ecco, questo sicuramente, su questo sono più d'accordo. Il telefono azzurro è un po' esagerato, ma anche perché non condivido l'iniziativa, ma non imporre a dei bambini una cosa del genere mi fa ricordare quel povero bambino, ragazzino di 12-13 anni che fu portato su un palco a manifestare in una manifestazione per l'appunto di giustizia e libertà, anzi scusami, di libertà e giustizia, a esprimere tutto il suo odio nei confronti di una parte politica. Ecco, non odio, amore eccessivi e politica rispetto ai bambini, dovrebbero essere lontani, un pochino lontani. Sentiamoci pure questa, Peter, vai. Non dimenticate mai che qualsiasi messaggio si dice virtuale su Facebook non vale la bellezza di un abbraccio fisico. Io sono su Twitter, uso WhatsApp, ho Facebook e sono patito anch'io. Su Twitter sono quasi a 1 milione di amici, su Facebook sono a 600.000. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrime da asciugare, dite una parola. Allora, buona. Io so che mi beccherò una bacchettata da Andrea Sarubbi, però un pochino ci sta, Andrea, Stamattina avete deciso di divertirvi e devo dire che insomma gli spunti non mancano. No, decisamente. Io l'altro giorno ho scritto per il giornale del Gruppo Espresso che Renzi mi ricorda Carlitos Tevez, no? Carlitos Tevez che non va in nazionale, però c'ha i murales nei Warriors di Buenos Aires perché è il jugador del pueblo, no? È il giocatore del popolo, questo è la... E secondo me Renzi ha deciso di giocare questo ruolo qua, no? Di fare un po' il giocatore del popolo. Quindi faccio un esempio: secondo la tradizione molto radicata nel nella democrazia anglosassone, che qualcosa da insegnarci ce l'ha. Un giorno a settimana il Presidente del Consiglio, quando è possibile, va in Parlamento a rispondere di persona al question time, che è una cosa seria, che è una cosa che non gli viene neanche detta in anticipo, cioè, sì. non può prepararsi le risposte scritte, deve rispondere lì per lì, perché deve rendere conto al Parlamento. Ora, il mercoledì in Italia è il giorno del question time. E il mercoledì Renzi è il giorno che è dedicato alle scuole. Per dire che è una scelta molto chiara, no? È una scelta di bypassare le istituzioni e di entrare direttamente a contatto con, scusate, uso la parolaccia, la gente con 3-4G. Cioè è un dire sì sì, ma io sono uno dei vostri, io sono Matteo, c'era cioè il responsabile della comunicazione del Partito Democratico che l'altro giorno si vantava, diciamo, la prendeva come cosa positiva, del fatto che Renzi in giro non venisse chiamato presidente dei bambini ma venisse chiamato Matteo. In generale la gente che lo incontra lo chiama Matteo. E beh, sì, certamente è una strategia politica e comunicativa. Però ecco, bisogna vedere poi se è la migliore oppure no. Certamente anche Grillo, no? Ha fatto una cosa simile a questa, lo stesso Berlusconi ha fatto una cosa simile a questa, cioè il Parlamento che è percepito come l'ostacolo, come il simbolo della casta, come quello che non funziona in Italia, viene bypassato e c'è il contatto diretto con le persone. Con le persone. Allora ci scrive qualche ascoltatore già via SMS, dice: nelle scuole elementari è normale che quando il sindaco è in visita gli alunni cantino. Sì, è vero. È vero che magari non mettono il nome del sindaco nella canzone che cantano. Si scrive addirittura: bisognerebbe licenziare gli insegnanti. Spero che Renzi non fosse a conoscenza di tutto questo. Ce lo scrive Roberto. No, ma Renzi sicuro non era a conoscenza, anzi, secondo me, insomma, si saranno anche pentiti di averla ascoltata. Però se l'avesse lo saputo prima, certamente avrebbero probabilmente un po' infastidito. Maurizio, una belva da campagna elettorale, comunque, oggettivamente. Perché nella chiave di lettura che ci dava Sarubbi, insomma, sembra uno da questo punto di vista in grado di veramente di competere con Berlusconi, ma proprio dal punto di vista della qualità della campagna elettorale, perché è uno che non ha paura di affrontare queste cose, diciamo. Che dici? Guarda, l'uomo è assolutamente abile a fare quello. Il problema è che al momento sembra abile a fare soltanto quello. Le dichiarazioni di ieri sui numeri, cioè sulle cifre che hanno portato a una sorta di bocciatura da parte di Bruxelles dell'Unione Europea, è stata piuttosto sgradevole da questo punto di vista. Il fatto che Renzi abbia detto: sapevamo che i numeri non erano quelli che raccontava Letta, ma siamo gentiluomini e non mi farò più cosa detto, non abbiamo calcato la mano. Insomma, anche questo dimostra, allora intanto può essere una lettura interessante e intrigante dei motivi della improvvisa accelerazione, da molti letta come sgradevole, che ha portato alla caduta del governo Letta e al passaggio a Renzi, ma insomma fa venire un po' i brividi, perché se adesso dobbiamo percepire che i numeri non erano quelli, così come è capitato con quasi tutti i governi dei passaggi degli ultimi anni, con l'accusa ci avete lasciato il buco, ci avete mentito, eccetera, siamo messi male. Ecco, ora leggo che entro pochissimo dovrebbe arrivare questo Jobs Act, che dovrebbe permettere all'Italia di ottenere qualche flessibilità in più sulle stringenti misure europee. Sì. Speriamo che sia qualcosa di più concreto di quello che Renzi aveva scritto in quella anticipazione di qualche tempo fa, perché francamente qui dentro c'era ben poco, insomma. Sì, ecco, un uomo molto bravo nel marketing al momento, molto poco nel fatting. Per parlare tra l'altro di cose come dire più solide, come dire, delle dichiarazioni, oggi tra l'altro c'è un'intervista, ne parleremo poi più avanti, rassegna stampa, il Sole 24 Ore, a Piercarlo Padoan, al nuovo ministro dell'economia, che presenta il suo piano sul cuneo fiscale e la spending, insomma parla di 5 miliardi alla spending, poi qualche quattrino in più che arriverà nel corso dell'anno da una serie di altre misure transitorie che poi diventeranno a regime nel 2015 con altri tagli di spesa. Oh, vedo che non vi siete svegliati benissimo, perché un paio di messaggi un po' duri. Pietro che si lamenta, dice: leggilo questo, leggilo, tutti i lecchini della corte dei miracoli di Berlusconi cantano inni assurdi e negano evidenze riguardanti il loro padrone, e non sono nemmeno bambini, lo fanno consapevolmente. E qua il punto è esattamente quello, che insomma erano dei bambini e non erano degli adulti consapevoli, insomma il punto, lo snodo è proprio quello. E non leggiamo solo messaggi anonimi, questo lo dico all'ascoltatore, anzi se volete mi potete scrivere su Twitter, che è il posto meno anonimo del pianeta, nonostante qualcuno pensi il contrario. Mi trovate là, Simone Spezia. A proposito di tutto questo, beh, c'è una frase che a me era piaciuta tantissimo. Insomma, siamo nei giorni delle consultazioni, ai giorni della formazione del governo, i giorni nei quali tutti noi giornalisti, immagino che il nostro Alessandro Milan un po' di carta costa su questo l'abbia fatto nei giorni scorsi e nella sua rassegna stampa, abbiamo raccontato la qualsiasi sul Presidente del Consiglio. E Renzi, parlando con i giornalisti, ha detto che insomma che non ne poteva più, che si era venuto a noia da solo. Mi sono venuto a noia da solo leggendovi, e quindi immagino che cosa possiate provare voi. Insomma, anche lui evidentemente non ne può più, e probabilmente non ne potrà più nemmeno di questo. Di tutto questo, insomma. Appunto, le cose serie a cui ci richiamava giustamente Maurizio Tortorella, Renzi che però annuncia anche nella giornata di mercoledì una serie di provvedimenti. Noi mercoledì immaginiamo di intervenire sul Jobs Act, sugli interventi sulla scuola, sugli interventi per il piano casa, e quindi mettere tutto insieme e non incatenare i sindaci, ma scatenare. Noi dobbiamo scatenare esattamente l'opposto, sbloccare a partire naturalmente dai debiti della PA. Il Jobs Act, appunto. E che cosa c'è dentro questo Jobs Act? Se lo chiede anche Renato Brunetta. Questo Jobs Act che Renzi ha... Lei lo conosce? Io no, però magari nessuno lei lo conosce. Nessuno lo conosce. Aspettiamo che il povero Renzi produca degli atti, e gli atti si chiamano disegni di legge o decreti legge provenienti dal Consiglio dei Ministri, che abbiano un articolato, che abbiano magari una spiegazione, che abbiano le coperture finanziarie e che abbiano come contenuto un percorso. Andrea Sarubi, questo contenuto effettivamente c'ha ragione Brunetta, c'ha ragione Tortorella, ancora non abbiamo visto niente, insomma, no? Ma infatti stiamo giudicando per ora, credo, una persona sullo stile e non sui contenuti, anche perché finora l'unica differenza che abbiamo visto rispetto a Letta è lo stile. Anche la battuta di ieri, ora si cambia verso, eccetera. È chiaro che cambia verso è un passepartout, no? È un'espressione che va bene per tutto. Cambia verso vuol dire basta, è finito il momento dell'austerità, adesso ricchi premi e cotillon per tutti, oppure cambia verso vuol dire siamo in malora e adesso si cambia verso e stringiamo la cinghia. Cioè uno insomma, cambia verso lo utilizza un po' come gli pare. Abbiamo sentito che si cambia verso, abbiamo visto che la comunicazione del governo è cambiata, però come ha detto Simone Baldelli, deputato di Forza Italia, la settimana scorsa in un intervento al Parlamento per la fiducia, ci guardi Presidente, rivolto a Renzi, noi non capiamo sinceramente molte differenze tra lei e il governo Letta, visto che lei ha la stessa maggioranza, ha le stesse risorse e per certi versi anche gli stessi ministri. Cioè è cambiato per ora sì uno stile di comunicazione, è cambiata la persona al governo, ma questo non vuol dire che cambi una politica, quindi io sostanzialmente non credo che troveremo grandissime difficoltà tra il governo precedente e questo. Perché la situazione attuale, sia politica sia economica, impone per forza di cose un sentiero stretto, e quindi Renzi su questo deve camminare. Poi ha deciso di camminarci lui invece di lasciarci camminare Letta, ma questo è un altro discorso. Non credo che la politica sarà molto diversa. A chi ci scrive, in poche settimane non si può giudicare, lasciamo fare Renzi, il tiro al piccione lo faremo dopo, ma guardi, non è che stiamo facendo tiro al piccione, semplicemente che la scena di ieri complessivamente era insomma un po' ridicola, magari nemmeno lo stesso Renzi l'avrebbe voluto, come forse non avrebbe voluto nemmeno il tweet di ieri di Graziano Del Rio, il suo sottosegretario alla presidenza, che se non sbaglio era là, che dice: oggi grande gioia, Matteo incoraggia insegnanti e bambini. 24 mattino. Scrive su Twitter Alessio il minuto: ma quanta pubblicità che state facendo a Renzi, pensate, cioè, che dobbiamo fare? Da un lato il Presidente del Consiglio ha in mano le cose, evidentemente, insomma, in mano le leve in questo momento, e poi sicuramente, signore, non c'è niente da dire, è una figura interessante, l'uomo sulla notizia, è l'uomo della notizia in questo momento, insomma, è la vicenda, la storia politica da raccontare, poi ci sono mille altre storie da raccontare, certamente. Però se c'è una storia politica da raccontare, evidentemente e naturalmente è questa. Allora, però c'è anche i suoi problemi il governo, e sono dei problemi relativi alla vicenda dei sottosegretari. I sottosegretari indagati sono quattro, uno non indagato si è dimesso, che è Gentile, la vicenda l'abbiamo straraccontata, è l'uomo che avrebbe bloccato con una telefonata la pubblicazione di notizie a lui sgradite che riguardavano il figlio. Però ieri è intervenuta in Parlamento Maria Elena Boschi dicendo che, insomma, questi quattro, siamo garantisti per questi quattro sottosegretari, insomma, non è un problema. Sentiamo. Ad oggi il sottosegretario di Stato Barraccio risulta nell'elenco degli indagati. Non è intenzione di questo governo chiedere dimissioni di ministri o sottosegretari sulla base di un avviso di garanzia, ma eventualmente per motivi di opportunità politica. Noi tutti abbiamo giurato sulla Costituzione e sappiamo che uno dei principi fondamentali è la presunzione di innocenza. Così dunque la Boschi, adesso se riesco a recuperare qua in questo inferno di quotidiani cartacei il Fatto Quotidiano, diciamo che è molto duro, come era prevedibile il titolo del Fatto Quotidiano su questa storia, adesso lo recupererò. Comunque c'è un attacco piuttosto duro a Renzi, naturalmente al governo Renzi, su questo tema. Chiedo Peter Bescapè se abbiamo anche Rosy Bindi, che secondo me non vedeva l'ora di picchiare duro su Renzi e quindi ha scelto questa vicenda dei sottosegretari indagati proprio per dargli addosso. Ascoltiamola. Coerenza vorrebbe che il governo non fosse, diciamo, abitato da persone sulle quali ci sono dei dubbi proprio su questi aspetti. Quindi lei ritiene che sì, insomma. Io ritengo che il mio partito una riflessione su questa cosa la debba fare. C'è stata quantomeno una grande superficialità nel prestarci attenzione prima. Tortorella, Maurizio, non vedeva l'ora la Bindi, comunque, cioè che abbia ragione oppure no, non vedeva l'ora. Non vedeva l'ora ed è evidente, era proprio felice di poter parlare. Se vuoi il mio parere, io sono molto d'accordo con Boschi, nel senso che trovo che, pensiamo a un magistrato politicizzato, purtroppo in qualche caso ce n'è stato in Italia, che decide di indagare, perché un'indagine non si nega a nessuno, un politico a piacimento. Questo è sempre possibile perché si trovano i motivi per farlo, anche con piccolissime vicende, a piccoli abusi d'ufficio, e automaticamente questo creerebbe l'incandidabilità o l'impossibilità per il suddetto politico di essere sottosegretario. No, non è così, ha ragione Maria Elena Boschi, l'avviso di garanzia è un atto giudiziario a tutela dell'indagato, non è certo una condanna né in primo né in secondo né in terzo grado. Questo può bastare, sicuramente non è bello, ecco, voglio dire, non è bello che ben 3-4 sottosegretari siano in quelle condizioni. Ricordo anche che Francesca Barracciu era stata candidata inizialmente per il PD alle elezioni regionali sarde e poi era stata tolta dalla competizione proprio per le indagini che la riguardavano. Ci sono stati indubbiamente delle contraddizioni di comportamentali, perché questo mi sembra interessante mi sembra interessante indagare, adesso scusate, no, se uso lo stesso termine, perché il punto è questo: uno chiede, mentre non è presidente del Consiglio, chiede la testa di Cancellieri per una telefonata sull'Igresti, chiede la testa di De Girolamo che non è indagata, insomma, sostanzialmente, almeno non lo era. Per il lessico usato in quella intercettazione, in quella registrazione. Insomma, e poi lascia passare questa cosa dei quattro sottosegretari. Insomma, ho capito il garantismo, però c'è anche una questione di coerenza, no? Chi la domanda? Lo chiedo prima a Tortorella e poi a te. Scusami, è che sento male. Un po' sì, sicuramente la coerenza è mancata. Con Cancellieri Renzi aveva preso una posizione, e non era Presidente del Consiglio, che è diametralmente opposta a quella che assume oggi. Indubbiamente un po' stona, ecco, questo sicuramente. Andrea Sarubi, che dici? Io sposterei l'attenzione dall'indagine, quindi dal capitolo giudiziario, al capitolo opportunità politica. Faccio un esempio: se io venissi nominato sottosegretario e poi a microfono aperto dicessi, certo, veramente non ci capisco nulla di sanità, mi hanno dato sta poltrona, ma io non so proprio dove arrabattarmi, no, perché veramente non è il mestiere mio. È chiaro che questa cosa poi resa pubblica non è che per questo non mi si potrebbe incolpare di reato, ma costituirebbe un motivo, a mio parere, per chiedere le mie dimissioni, no? Dicendo un sottosegretario appena messo lì che dice, che ammette candidamente di non capirci niente della propria materia, dovrebbe andare via, ok? E indagine. Vabbè, ma quanti lo dovrebbero fare, che non lo ammettono candidamente, però per questione di competenza. L'opportunità politica è cosa diversa rispetto al procedimento giudiziario, sul quale io ho le stesse identiche opinioni di Mariana Boschi, quindi io anche credo che la presunzione di innocenza vada rispettata sempre, e tutti sappiamo che molti indagati non vengono poi condannati, addirittura molti condannati in primo grado non vengono poi confermati nei successivi gradi di condanna, quindi su questo dovremmo, scusate l'espressione, stare tutti un po' più sereni da questo punto di vista. Il famoso stai sereno. Che a questo punto è terrorizzante. Stai sereno, è terrorizzante a questo punto. Detto questo, il problema di opportunità politica esiste sempre, perché una persona che non era, ad esempio, candidabile in Sardegna perché si temeva di perdere le elezioni, cioè si temeva che i cittadini l'avrebbero bocciata, che avrebbero appunto preso le distanze da una persona accusata di una colpa grave, perché questo criterio, quando è sottoposto al giudizio popolare, diventa rigido, e quando invece non è sottoposto al giudizio popolare, quindi si passa per una nomina, no? Diventa improvvisamente morbido. Allora, è qui che manca la coerenza, non tanto sul fatto, io credo per esempio che Francesca Barraccio sia innocente, ma allora a quel punto un partito deve avere la forza di candidarla, se è il suo candidato in Sardegna la deve candidare e non le deve far fare un passo indietro, perché se non è buona per fare il candidato in Sardegna, non è buona per fare il sottosegretario. A mio parere poteva essere buona sia per l'una sia per l'altra cosa, ma non puoi usare due pesi e due misure a seconda del fatto che tu i voti li chieda in quel momento oppure no, perché sennò sei tu che non sei credibile. Certo, quindi un problema sostanzialmente di coerenza. Una battuta ve la chiedo sull'ipotesi di Nobel per la pace, abbiamo veramente un minuto. L'ipotesi di Nobel per la pace a Putin che sta circolando in queste ore, Maurizio? Praticamente mi sembra paradossale, una provocazione indebita, è quasi uno scherzo, no? Eviterei, anche se ormai un Nobel non si nega a nessuno. Assolutamente. Insomma, uno è comunque uno dei 278 candidati. Andrea Sarubi. Beh, anche la squadra di Bob della Giamaica ha fatto le Olimpiadi invernali a Sochi a proposito di Putin, però era una cosa di colore. Io credo che abbiano fatto colore con il Nobel per la pace a Putin, è un colore brutto, però un colore nero, in questo momento, in questo momento soprattutto che stiamo vedendo in questo momento in Ucraina, in questo momento soprattutto. 24 mattino. Di nuovo una

grandi motivi di sorpresa, in quanto la Commissione Europea ha detto a noi e ha detto a altri 16 governi e stati, perché vorrei subito chiarire che il rapporto della Commissione Europea non è un rapporto speciale sull'Italia, ma è un rapporto ordinario nel quadro del è vero anche che i tre osservati è vero anche che quelli, gli osservati speciali sono tre, siamo noi, se non sbaglio, Croazia e Slovenia. Gli osservati speciali, i paesi che rispetto all'ultimo rapporto hanno peggiorato i conti pubblici. Questo non vuol dire che non ci sia delle riforme da fare in Germania, ad esempio, che non ci siano delle riforme da fare in Francia, ma quello che ci ha detto sono cose che noi sapevamo, sappiamo e sui quali vogliamo agire, ma non perché lo scrive la Commissione Europea in un rapporto, ma perché le riforme necessarie per far ripartire l'Italia sono necessarie e sono nell'interesse degli italiani. La risposta non è tanto fare il dibattito sullo 0,1-0,2%, il parametro finanziario, tutta questa, diciamo, dibattito a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi, che non ha portato poi molto lontano, ma rispondere con quelle riforme che noi riteniamo siano fondamentali per creare lavoro e per favorire la competitività. La prima risposta sarà la riforma col piano del lavoro, cosiddetto Jobs Act, che presenteremo la prossima settimana, assieme a una riduzione delle tasse sul lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale, e assieme anche a un programma di pagamento di tutti i debiti della PA nei confronti delle imprese, che vuol dire immettere liquidità. Queste sono le risposte concrete, ma noi vogliamo fare non perché l'abbiamo letto nel rapporto, ma perché ci siamo impegnati e su questo abbiamo ottenuto la fiducia in Parlamento. Sì, a proposito del cuneo fiscale, vi ricordo ancora che oggi, ripeto, l'intervista del giorno è sicuramente quella al ministro Padoan sul Sole 24 Ore, che racconta nei dettagli da dove si cavano le risorse, secondo lui, per arrivare a un taglio, al famoso taglio a doppia cifra, 10 miliardi di euro ipotizzato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sarebbero 5 miliardi subito dal taglio della spesa, dalla cosiddetta spending review, e rispetto ai tre ipotizzati inizialmente dal governo precedente, più altri soldi che arriverebbero da operazioni transitorie, per così dire, sulle quali, tra l'altro, Gozzi, c'è qualche dubbio, perché oggi Padoan ipotizza anche l'utilizzo dei fondi europei. Magari adesso su questo ci torneremo. Intanto saluto Giorgio Cremaschi, portavoce, non so se presidente del Comitato No Debito. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sì, che le pare? Siamo un gruppo, non abbiamo portavoce, non è, comunque va bene. Senta, le piace la lettura di Libero? L'Europa gioca sporco e dichiara guerra all'Italia, anche se so che il Libero è quanto di più distante dalle sue posizioni politiche si possa immaginare? Sì, siamo laici, sì, condivido che l'Europa giochi sporco. Diciamo che ci sono due verità in questa nota dell'Europa. Una verità riguarda noi, cioè noi siamo dal 2011 sotto tutela europea, dal 2011 noi stiamo eseguendo dettagliatamente le politiche dell'Unione Europea e il risultato finale è che abbiamo peggiorato i conti. Quando è cominciata la cura dell'austerità nella maniera più brutale, noi avevamo un rapporto deficit-PIL sotto il 120%, adesso siamo al 132%. Avevamo 1.900 miliardi di debito pubblico quando è andato al governo Monti, adesso ne abbiamo 2.100. Quindi, da un punto di vista esclusivamente ragionieristico, dovremmo dire che la politica di Monti, di Letta e mi pare anche di Renzi, visto che la continua, sia una politica esclusivamente fallimentare da un punto di vista. Però è vero anche che questa politica fallimentare è quella dettata dall'Europa, quindi diciamo così, è l'assassino torna sul luogo del delitto. Olli Rehn sta semplicemente riproponendoci di fare quello che ci ha portato a questa situazione. Quindi, diciamo. Dopodiché c'è tutto questo linguaggio sulle riforme, mi permetta di dire che io ho un'obiezione di carattere linguistico, nel senso che io penso che bisognerebbe essere onesti come la Chiesa nel 1600, all'epoca del Concilio di Trento, quando chiamò quello che decideva di fare allora contro riforma e non riforma. Ecco, cioè quelli che ci chiedono di fare sono contro riforme sociali, cioè cose che peggiorano drasticamente la vita dei cittadini. Abbiamo un paese che è la cavia di tutto questo, si chiama la Grecia, stanno uscendo oggi i dati della sanità, c'è il 43% di aumento della mortalità infantile nei primi anni di vita, ci sono il ritorno di malattie come la malaria. Sì, devo dire, guardi Cremaschi, ecco. Devo dire, anche su quella storia della mortalità infantile ci sarebbero molte precisazioni da fare, in rete si trovano anche quelli che possiamo definire dei debunk sul tema, così vengono chiamati. Io sono stato recentemente quando circolano, al di là delle percentuali mi sono reso conto che c'è una condizione nel paese di regressione drammatica, quello indubitabile. Ho parlato con gli insegnanti che si lamentano del fatto che i bambini vengono a scuola senza aver mangiato, e quindi siamo di fronte a condizioni, devo dire, che sono quella che si chiama la terzomondizzazione, cioè la Grecia viene progressivamente ridotta a un paese del terzo mondo. Nessuno vuole sminuire naturalmente quello che sta succedendo in Grecia, e ci sono molti sms di ascoltatori, ve lo ricordo il numero per gli sms naturalmente, il 349-238-6666 per intervenire in diretta via sms, oppure l'800-24-0024 naturalmente per le telefonate. Mi trovate anche su Twitter, se volete, Simone Spezia. Gozi, le voglio chiedere questo e vorrei farne un punto di dibattito. No. Il ragionamento di Cremaschi è un ragionamento che vedo anche dagli sms degli ascoltatori, che viene in parte condiviso. Dice, ma insomma, questi sono gli stessi che 3-4 anni fa, e tra l'altro è la stessa Commissione europea, cioè lo stesso governo di Bruxelles che ha portato avanti quelle ricette per la Grecia, che hanno condotto la Grecia sicuramente non ad un miglioramento economico, ma a delle condizioni di vita drammatiche. Il tema c'è oggettivamente, no? Dice, come fai a dar credito a questi? Allora, Cremaschi ha sbagliato la premessa, poi parte del ragionamento si può anche condividere, ma la premessa è totalmente sbagliata, perché noi abbiamo in passato evitato quello che purtroppo non ha potuto evitare la Grecia. Abbiamo evitato il piano d'aiuti, abbiamo evitato la Troica, e adesso noi vogliamo fare quelle riforme, lo ripeto di nuovo 3 volte, così è chiaro, perché abbiamo ottenuto la fiducia in Parlamento. Se poi anche la Commissione europea ritiene che occorrono dal punto di vista delle regole, del fisco, nuove politiche del lavoro, ne prendiamo atto, ma noi l'avremmo fatto anche se la Commissione europea non ce l'avesse detto. La Commissione europea parla di competitività delle imprese, uno dei problemi principali della competitività delle imprese è proprio il cosiddetto cuneo fiscale. Su questo lei ha già ricordato quanto il ministro Padoan ha dichiarato e quanto il ministro Padoan sta facendo. Poi c'è un altro aspetto che a Cremaschi forse sfugge della politica del nuovo governo, gli ricordo che non c'è un nuovo governo e che non è affatto in continuità per questi aspetti col vecchio. Noi diciamo innanzitutto facciamo le riforme nell'interesse dei lavoratori, dei disoccupati e degli imprenditori italiani. E con questo andiamo anche a livello europeo a cambiare una politica europea, ma non chiedendo deroghe, eccezioni per l'Italia, non col solito atteggiamento di sudditanza oppure col solito provincialismo italico che dice adesso andiamo a sbattere i pugni sul tavolo di Bruxelles. No, noi vogliamo cambiare alcuni aspetti certamente della politica economica europea nell'interesse dell'Europa, non perché conviene all'Italia, ma perché conviene all'Europa e perché, e su questo sono d'accordo, buona parte delle ricette, lo squilibrio dell'approccio alla Olli Rehn, che ha concentrato tutto sulla stabilità, che è diventato rigore, che è diventato austerità cieca in alcuni paesi, innanzitutto la Grecia, senza mai concretamente dare avvio a quei margini di manovra, a quella flessibilità che vuol dire avere più possibilità di stimolare la domanda, di fare crescita, di fare investimenti a livello nazionale, e vuol dire anche fare delle nuove iniziative, ad esempio per facilitare il credito, la liquidità alle piccole e medie imprese a livello europeo. Tutto questo noi vogliamo farlo e vogliamo farlo e volete portarlo. Importante che sarà in ottobre, sì, in cui si ridiscuterà i rapporti proprio in materia di riforme, flessibilità e possibilmente incentivi della zona euro. Questo è il nostro approccio. Sì, è una strada facile? Cioè, no, ecco, è una strada da percorrere? Sì, è la strada da percorrere. Il punto è che naturalmente, Gozzi, c'è qualche dubbio che insomma che tutto questo alla fine possa funzionare in un'Europa a trazione tedesca, intendo proprio la trattativa possa funzionare. Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. La faccio parlare, ma subito dopo una pausa. 24 mattino. E certo, stiamo anche rappresentando, adesso ne parleremo con Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, abbiamo oggi due posizioni molto critiche sull'attuale gestione europea. C'è anche una posizione diversa, c'è chi dice, come Maurizio da Parma, se non erro, che ci scrive via SMS, adesso sentiremo anche qualche ascoltatore, dice continuiamo a dare la colpa all'Europa e mai a farci un serio esame di coscienza. C'è anche questa posizione e che ha una sua validità. Io vi faccio un esempio perché è una cosa che mi ha colpito molto. Questa mattina sul Sole 24 Ore si parla di questi 2 miliardi per la scuola che Renzi ha dichiarato di voler stanziare. Bene, ci racconta in un pezzo Giorgio Santini, molto interessante, che Renzi sa esattamente di cosa parla. Perché? Perché ci sono 2,164 miliardi bloccati in 10 differenti piani per l'edilizia scolastica che sono stati lanciati dal 2002 ad oggi e che non sono stati ancora spesi. In 10 anni, sostanzialmente 10 piani, in 12 anni, 10 piani, e sono soldi che non siamo in grado di spendere. Quindi c'è molto da fare, evidentemente, e questa è la posizione di alcuni, evidentemente anche al nostro interno. Allora, Laura Castelli, come l'ha presa ieri le dichiarazioni di Rennes e quello che ci dice Bruxelles? Ma guardi, il fatto è uno solo, che quando si parla di sovranità e di Europa, noi dobbiamo essere coscienti che l'Italia ha perso tutta la sua sovranità, ma soprattutto la sovranità di decidere che cosa serve a questo paese. Questa è l'Italia in cui, quando succede il disastro dal punto di vista territoriale in Emilia, in Sardegna, all'Aquila, questo paese non trova i soldi. Questo è il paese in cui 7 miliardi e mezzo alle banche si trovano subito. Per cui io credo che oltre alla sovranità ci sia un problema politico. Ha ragione l'ascoltatore che ha scritto che forse la colpa è nostra, certo, è di questa classe politica che continua a scegliere con la scusa dell'Europa che cosa vuole, e lo dice bene la Corte dei Conti, che trova sulla legge di stabilità, l'ultima legge di stabilità, un buco di 13,7 miliardi. Da una parte l'Europa che bacchetta l'Italia perché dà un incentivo di 7,5 miliardi alle banche, cosa che non si potrebbe fare, dall'altra però non capisce, non scopre che sulla legge di stabilità italiana c'è un buco di 13,7 miliardi. Ora, la fortuna di chi come noi, cittadini qualunque, approda in Parlamento è che vede le cose da un'ottica un po' diversa, come per esempio abbiamo fatto su quello che riguarda i temi europei e i parametri che ci sono stati obbligati, qualche volta obbligati e qualche volta no, dall'Europa. Ed è il caso della mozione che chi ci segue, che segue le dirette della Camera, vedrà in aula venerdì, dove noi chiediamo di sforare il 3%, semplicemente perché c'è una legge italiana in cui si dice perché, per quali motivi si può sforare il 3%, crisi economica, crisi ambientale, recessione. Chiediamo semplicemente di poterlo sforare per far fronte a quegli investimenti che si dice di non poter fare. Di quanto Castelli, secondo lei quanto pensate di liberare? Se ammesso, io dubito che la mozione vada in porto, insomma, nel senso che vada in porto sarebbe una figuraccia per Renzi, perché Renzi una delle prime cose che disse è questo 3% è una misura sbagliatissima. Lo stesso Padoan, che per anni è stato all'Ocse e ha scritto fiumi di carta che riguardavano Pensate che si possa ricavare? Lo dovremmo decidere insieme, si dice in Parlamento, non lo può decidere il Movimento 5 Stelle. C'è un'altra cosa che io vorrei dire a chi ci ascolta. Renzi è quello che va sì nelle scuole, oltre alle scene che ha fatto ieri, ed è quello che parla del Job Act da giorni, ma è quello che in Parlamento non lo deposita, va dalla Merkel a far leggere il Job Act, non viene nel Parlamento italiano a parlare del suo Job Act. Io ho trovato un giornalista fuori dal Parlamento l'altro giorno che mi diceva: lei cosa ne pensa? Ho detto: guardi, io non l'ho mai letto, lei l'ha letto? Non l'ha letto nessuno, ma l'ha letto la Germania. Allora, l'ha letto la Merkel. Allora, non è rispettoso. Voglio sentire qualche ascoltatore. Giuseppe da Udine, buongiorno. Buongiorno, sono un imprenditore di Udine. Prego. Volevo solo dire questo: ci sono due letture a proposito del messaggio dell'Europa. La lettura cattiva è che vogliono che noi facciamo una patrimoniale, riduciamo il debito e poi potremo eventualmente sforare il 3%. La lettura buona è quella che il governo spera, è che un invito a spingere sulla ripresa per migliorare il denominatore deficit PIL. No, sinceramente i provvedimenti presi finora dai governi sono repressivi, non sono stimolanti alla ripresa. Sì, lo ricordo, mi scusi Giuseppe, la interrompo solamente per dire questo, perché poi sennò magari alcuni ascoltatori che queste cose ce le hanno meno chiare, perché si occupano meno di economia, semplicemente non capiscono. Quando parla di denominatore intende il fatto che il rapporto deficit PIL e il rapporto debito PIL sono appunto dei rapporti, e quindi l'idea è che spingendo sul prodotto interno lordo e facendolo crescere, naturalmente si riduca evidentemente anche il rapporto con il deficit e il rapporto con il debito, insomma, giusto per chiarire, concluda. Esatto, sì, però questa è la versione ottimistica, cioè lavorate, fate di più per ridurre il debito, ma io credo che la versione giusta sia quella tedesca. Da tempo dicono: siete ricchi, fate la patrimoniale, riducete il debito. Sì, anche se la patrimoniale ce l'abbiamo già avuta in realtà, perché l'IMU lo era, lo era sostanzialmente, come sa lei. Marco, la provincia di Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo solo fare due domande ai signori che ha in trasmissione. Prego. La prima, se da un punto di vista oggettivo quello che ha detto Ren è così lontano dalla realtà, e la seconda è sul dovremo, perché è vero che ci sono stati molti cambiamenti in questi giorni all'interno del nostro governo, ma credo che giustamente l'Europa si interroghi sul quando noi faremo veramente qualcosa, perché fino a oggi sono state faremo, discuteremo, parleremo. Ecco, la ringrazio Marco. Io queste due domande le voglio girare a Sandro Gozzi, insieme all'SMS che mi arriva da un ascoltatore che dice: io ad ottobre non avrò più il lavoro, faremo, discuteremo, taglieremo. Il riferimento è alla data che lei ha dato, Gozzi, per questa discussione in Europa. Prego. Allora, innanzutto all'esponente del Movimento 5 Stelle vorrei ricordare che io sono cittadino quanto lei, non sono nato in un partito, non sono nato in politica, ho fatto 4 lavori prima di mettermi in questi anni al servizio delle istituzioni del Parlamento, e quindi su questo non ci sono lezioni da dare. Rispetto a ottobre, io non ho dato la scadenza di ottobre per il piano del lavoro che verrà presentato mercoledì prossimo, e anche su questo è totalmente falso quello che è stato affermato, secondo cui Renzi lo avrebbe trasmesso alla Merkel. Io vorrei dire che la prima uscita internazionale di Renzi è stata in Tunisia, ed è stata in Tunisia perché per noi il Mediterraneo è fondamentale, perché non abbiamo fatto il solito viaggettino a Berlino a prendere istruzioni, perché non è così che si difendono gli interessi nazionali. Ci sarà certamente un vertice bilaterale, come sono vertici bilaterali con tutti i governi europei, è tradizione da sempre che l'Italia li faccia con la Francia e li faccia con la Germania. Quindi questo è il secondo punto. Il faremo è di qualche giorno, finalmente, e lo dico anch'io finalmente, perché posso dirvi che io sento parlare di riforme per la crescita, per il lavoro, delle istituzioni, della legge elettorale in Italia da 20 anni, senza che queste siano fatte. Noi invece stiamo passando ai fatti, e lo faremo con le proposte sul lavoro mercoledì prossimo. Non mi sembra che abbia detto ottobre di quest'anno, ottobre del prossimo anno. Ma quindi anche il governo Letta, per informare un po' bene la gente, perché la gente ha diritto di essere ben informata, che sarà un momento di discussione europea sul quale e sarà il momento per negoziare, spingere per cambiare la politica economica europea su alcuni aspetti che stiamo discutendo questa mattina in ottobre. Quindi non ho detto che faremo tutto in ottobre, faremo le cose che dipendono da noi, nella nostra sovranità, già la prossima settimana col piano del lavoro. Ci sono delle cose che vanno negoziate a livello europeo, nella zona euro, e sarà un appuntamento molto importante per tentare di dare una svolta, per fare la differenza in ottobre. Quindi è possibile secondo lei negoziare? Perché un governo serio parla di quello che si farà tra tre giorni, ma anche le idee chiare in quello che si farà soprattutto nel semestre europeo che precederà. Brevemente, che poi devo dare la viabilità e poi naturalmente torniamo e risentiremo anche Cremaschi, ma è possibile negoziare il 3% secondo lei? Questa è la risposta per ridurre il debito. Negoziare il 3%, quindi ad ottobre si può negoziare sul 3%. Ho detto che la risposta per veramente cominciare seriamente in maniera strutturale a ridurre il debito è lavorare sulla crescita. Per lavorare sulla crescita ci sono vari aspetti. Innanzitutto, incidere dal punto di vista delle regole del fisco sul lavoro. Sì. Dovremo anche, attraverso le varie riforme strutturali, che non sono solo queste, ma sono anche la riforma del sistema della giustizia, i pagamenti, l'immissione importante di liquidità che avverrà attraverso i pagamenti di tutti i debiti della pubblica amministrazione alle imprese. Insomma, se noi sapremo crescere attraverso le riforme strutturali che stiamo discutendo adesso e che cominceremo a presentare in Parlamento nei prossimi giorni, guadagneremo automaticamente più spazio anche sui conti pubblici. Questo è il messaggio anche del ministro Padoan di questa mattina, intervista che lei ricordava, ed è questa la linea sulla quale stiamo lavorando. Giorgio Cremaschi, ma che ci serve sforare il 3% se poi, come riportavo poco fa da questo pezzo del Sole 24 Ore, non siamo in grado di spendere 2 miliardi stanziati praticamente da 10 anni? Sì, però mi permetta di dire una cosa. Io gliela permetto, però deve essere saltata la linea o essere successo qualcos'altro. Roberto da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Senta, una considerazione molto veloce, al di là di alcuni difetti strutturali di come è stata costituita la Comunità Europea, soprattutto sulla parte che non ha armonizzato il discorso fiscale delle banche, ma io non mi scandalizzo che la Germania o che l'Unione Europea ci dica questo. Noi abbiamo vissuto per anni al di sopra delle nostre possibilità, abbiamo speso male, non siamo stati in grado di spendere. Cosa ci dice la Comunità Europea? Dovete mettere la testa a posto, come si direbbe a una famiglia, al proprio vicino che per anni guadagnava 1000 e ha speso 1200 e ha speso male, e quindi dovete rientrare in quelli che sono dei criteri di responsabilità. A proposito di responsabilità, è chiara di chi ha responsabilità: degli italiani e del governo che in questi 20 anni ha gestito gli italiani. Cioè, non vedo qual è il problema, non riesco a capire la polemica. Non siamo sudditi dell'Europa, è grazie all'Europa che forse ne verremo fuori, secondo me. Grazie Roberto. A chi ci scrive invece via SMS, fatemelo ricordare, perché questa è una mia fissazione, se volete, però è abbastanza importante, perché a volte si diffondono in giro e soprattutto in rete tante notizie che non sono quelle vere. Allora, chi continua a insistere sui 98 miliardi condonati, aperte virgolette, condonati alle aziende delle slot, vi ricordo sempre, lo abbiamo fatto anche in altre trasmissioni e in altri momenti, che quei 98 miliardi erano la richiesta della procura, cioè non c'è mai stata una sentenza che prevedesse che le aziende delle slot dovevano pagare 98 miliardi, giusto per poi magari aveva ragione la procura e le indagini non sono state fatte abbastanza a fondo, questo non lo so, però lo stato dell'arte è questo: non c'è mai stata una sentenza che ha decretato che le aziende delle slot ci devono 98 miliardi e da là possiamo ricavare i soldi, è solo un'inchiesta della procura, della Corte dei Conti sostanzialmente. Cremaschi, ritorniamo là alla domanda che le facevo. Ha sentito anche la posizione di Roberto da Varese, che è anche una posizione abbastanza diffusa questa, anche se quella più antieuropea e forse si fa sentire in maniera più energica. Prego. Ma io credo che sono appunto 20 anni che le classi dirigenti tutte ci spiegano che devono fare il nuovo e che l'Europa ha ragione, perché noi la colpa è nostra, e poi il risultato è che noi sommiamo sommiamo, questa è la verità, corruzione, storture e politiche di austerità. Ormai è dimostrato dai fatti, al di là delle chiacchiere, che le politiche di austerità, non al di là della loro ingiustizia, non rendono il paese più virtuoso, lo rendono più vizioso. Cioè, se noi dovessimo calcolare quello che è successo in 3 anni di politiche di austerità e calcolare tutte le altre cose che sono avvenute nel nostro paese, dovremmo dire che in questi anni le politiche di austerità, ripeto, si sono sommate alle politiche distorte che ci sono da sempre nel nostro paese. Quindi però, Cremaschi, non accetto più una discussione del problema che dice, siccome noi abbiamo sicuramente problemi, ruberie, tutte le cose che conosciamo tutti, a questo punto dobbiamo accettare le politiche. Però Cremaschi, io non capisco. Le politiche di austerità sono un male in sé, e questo è il punto. Però quando Cremaschi, mi scusi, me la fa fare una domanda. Perfetto, voglio capire come ne esce lei, perché Gozzi ci dice, poi qua ci sono anche naturalmente, come è normale, i dubbi degli ascoltatori che dicono questo faremo, questo eccetera eccetera, però Gozzi dice andiamo ad ottobre a negoziare, a parlare con Bruxelles e appunto proviamo, grazie anche al nostro ruolo, alla nostra importanza in Europa, a volte ci sottovalutiamo, ma in realtà siamo comunque un membro fondatore e comunque restiamo, nonostante le difficoltà, gli anni di recessione, una potenza industriale e quindi molto importanti per l'Europa. Andiamo a negoziare, proviamo a battere i pugni sul tavolo e vediamo che succede. Non ho capito lei come intende uscirne, sì, Cremaschi. No, io penso che questa sia una posizione che non esiste, perché noi abbiamo, anche qui c'è un problema di disinformazione, non degli italiani in generale, cioè che non colpa loro ovviamente. Cioè, noi abbiamo firmato dei trattati, hanno disdettati questi trattati, il fiscal compact, i two-pack, adesso bisognerebbe fare un elenco, sono trattati che ci impegnano, ci obbligano a determinate politiche di austerità, quindi vanno messi in discussione. Un insospettabile europeista come Nomisma, fonte, diciamo, l'agenzia economica e di ristudi legata al presidente, all'ex presidente Prodi, sottolinea che noi non possiamo reggere economicamente un valore dell'euro a 1,40 rispetto al dollaro, cioè questo serve alla Germania ma non serve a noi, quindi va messa in discussione alla radice la struttura economica e la stessa struttura diciamo dei trattati dell'Europa. O si fa questo oppure si continua a fare chiacchiere, cioè uscire dall'euro, dall'euro, Cremaschi? No, metterlo in discussione, non è che noi usciamo dall'euro, l'euro è una moneta che non sta più in piedi, lo dicono fuori dall'Europa, lo dicono tutti, oggi questa mattina avevo un testo di Stiglitz che non è sicuramente un reazionario, come si può dire, o di Paul Krugman, io penso che bisogna mettere in discussione la parità euro-marco, questo. La cosa migliore sarebbe se la Germania uscisse dall'euro, devo dire, ma certo noi non possiamo restare, non possiamo cacciarli, condizione. Non possiamo cacciarli. Laura Castelli, a lei, che dice? Voglio dire che sarebbe carino capire il governo Renzi come intende trovare 50 miliardi sulla legge di stabilità del prossimo anno, 2014, fiscal compact, il primo anno di fiscal compact, dobbiamo trovare 50 miliardi per poter pagare l'Europa. Questo significherà grossi tagli, significherà grandi vendite immobiliari che è dimostrato non servono per abbattere il debito pubblico, significherà aumento delle tasse e Dio solo sa quali chiusure di servizi pubblici. Questo non è il paese che possiamo permetterci, perché io non so se i componenti del governo stanno in giro per i mercati, vanno a parlare con le persone che non riescono a pagare l'affitto, e non è populismo, mi dispiace ma non è populismo, questa è la realtà dei fatti. Ora, io credo che fino a che non si prenda in mano la situazione, ma veramente pensando a un reddito di cittadinanza, fatto bene, noi l'abbiamo fatto e ci abbiamo messo le coperture, l'unico problema è prendere i soldi laddove questa classe politica per 20 anni non ha voluto prenderli. Tutto qua, niente di più. Allora Castelli, dato che siamo quasi in chiusura, a questo punto faccio rispondere Gozzi, soprattutto sul tema del fiscal compact che mi interessa. Naturalmente anche qua, come al solito, la cifra di 50 miliardi è discutibile in base a come va il prodotto interno lordo. Certo, l'arrivo del fiscal compact ci crea un problema, perché comporta una riduzione, mi pare, di un 20° all'anno del debito in rapporto al PIL. Gozzi. Beh, sul Social Compact finalmente ha risposto bene lei, questa leggenda di 50 miliardi è tale perché non è il debito pubblico in termini assoluti, è il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, quindi è evidente la nostra esistenza. Va bene, però, sulle riforme strutturali per... questo è il dato fondamentale e la gente deve saperlo. Poi il Fiscal Compact è la riproduzione in altri termini, cioè in termini internazionali, delle decisioni prese dal Two-Pack e dal Six-Pack. Decisioni prese dal governo Berlusconi-Tremonti, decisioni sulle quali avevamo votato in maniera contraria al Parlamento, decisioni che, dato che si tratta di leggi ordinarie e non di trattati, questo lo ricorda Cremaschi che ha confuso molto le cose, possono essere riequilibrati dal lato di un compact per la crescita, dal lato di un compact di politica industriale, ed è questo l'obiettivo. L'obiettivo è costruire quell'Europa che non c'è e costruire quelle politiche europee che devono permetterci di ritornare a fare una vera politica industriale e di ritornare a fare una politica degli investimenti per la crescita. Non è la Germania che si dice, perché io ve lo ripeto, in questo rapporto c'è nel mirino della anche la Germania, me lo lasci dire, perché c'è anche la Germania, chiaramente quello che Renzi dice da mesi, e cioè che i tedeschi devono finalmente stimolare di più la domanda interna, che hanno uno squilibrio commerciale inaccettabile per loro... tutti, perché non siamo il Calimero, siamo un paese che deve fare alcune riforme, come la Germania è un paese che ne deve fare altre, come la Francia è un paese che ne deve fare altre, quindi smettiamola di considerarsi sempre gli ultimi la sente, la sente la musica di sottofondo, dobbiamo chiudere, grazie Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, in redazione anche Elisabetta Fusconi e Alessandro Marco Tulli, ci sentiamo domani e poi spero che insomma il vostro Alessandro Milan ritorni. Giornale Radio.